L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati in questa puntata nella quale faremo un bel giro di tanti temi diversi. Parleremo in principio di strategia energetica nazionale, chiusura di centrali a carbone, energie rinnovabili, ma per non farci mancare nulla poi andremo a Mortara, dove qualche giorno fa è andato a fuoco un deposito di stoccaggio rifiuti facendo scattare l'allarme diossina. Poi chiudiamo in bellezza con un pochino più di leggerezza, andremo a Verona, dove fino al 19 si svolge il Cosmo Bike Show e una città del sud, forse per la prima volta, almeno a mia memoria, viene premiata per il suo piano di mobilità sostenibile, ma avremo modo di parlarne. Cominciamo dalla SEN, la Strategia Energetica Nazionale. In settimana si è chiusa la consultazione pubblica aperta a giugno. Molte associazioni ambientaliste hanno colto quindi l'occasione per una grande petizione per ottenere la chiusura delle centrali a carbone ancora attive in Italia. In Italia ci sono ancora centrali a carbone. Quante? Dove? Chi ci abita vicino lo sa, gli altri probabilmente no. Noi l'abbiamo chiesto ad Andrea Boraschi, responsabile campagna clima di Greenpeace. Ad oggi sono ancora attive in Italia 8 centrali alimentate a carbone, erano 13 non più di qualche anno fa. Alcune tra quelle che sono state chiuse, la maggior parte di quelle che sono state chiuse sono impianti che già lavoravano poco e piuttosto piccoli, rimangono in funzione, diciamo, le centrali più produttive e tra queste anche le più grandi, quelle che non solo producono più elettricità ma producono anche più emissioni. Quindi sì, ce ne sono ancora attive e se si dismettono è più per una scelta strategica di Enel che per una indicazione superiore per ora. Enel infatti è diventato uno dei più grandi player, come si dice, delle rinnovabili nel mondo, anche se in Italia lo è un po' meno, anche perché le cose lo spingono un po' meno ad esserlo. Ma l'Enel le sue scelte le ha fatte, le sta portando avanti, è un'azienda che ha annunciato un paio di anni fa, credo, la chiusura di 23 impianti alimentati a fonti fossili, parliamo fondamentalmente di gas e di carbone, forse c'era ancora qualcosa d'olio combustibile, ma erano comunque impianti già non più operativi. Quindi sta dismettendo buona parte della sua produzione con fonti fossili, parliamo di una quota importante, sono circa 13 gigawatt di potenza installata, però, ripeto, rimangono ancora attive sul nostro territorio diverse centrali, ecco, menziono le due, le principali, quella di Civitavecchia e soprattutto quelli di Brindisi, che è quest'ultima tra gli impianti, diciamo, con le maggiori emissioni sia in termini di CO2 che di altri inquinanti. E questo fardello è un fardello ambientale che il nostro paese si porta dietro e che ha anche delle conseguenze strutturali rispetto alla rete. Non voglio addentrarmi in discorsi troppo complicati, ma la produzione a carbone è in realtà, da un punto di vista proprio ingegneristico della rete elettrica, direttamente antagonista alla produzione da fonti rinnovabili. Fin quando noi avremo un carico più o meno importante di produzione da carbone, la penetrazione e dunque l'affermazione, diciamo, come dire, ultima delle fonti rinnovabili nel nostro sistema elettrico sarà sempre difficoltosa. Ora comunque il dibattito è stato aperto a livello governativo, lo ammette Boraschi, non solo sulla chiusura delle centrali a carbone quanto anche sulla conversione nazionale alle rinnovabili, anche se abbiamo sentito i due discorsi sono collegati e devono andare di pari passo. C'è anche un tema di rispetto degli impegni internazionali che l'Italia ha preso, c'è da ridurre le emissioni di CO2. Il rischio è però che ancora una volta si giochi al ribasso, cioè che non si facciano delle scelte con un'asticella particolarmente alta. Le soluzioni che sono emerse, diciamo, quel che si prevede di voler fare è ancora qualcosa di piuttosto timido e debole, si potrebbe fare molto di più. Che cosa si prevede quindi? Sì, in buona sostanza sono stati previsti tre scenari alternativi. abbandono del carbone. Uno scenario, diciamo, base che prevede il mantenimento di quattro centrali, tra cui appunto anche quella di Brindisi, che è la più inquinante d'Italia, uno intermedio con la chiusura anche di quest'ultima e uno più avanzato, che è quello che ci sembra più interessante, che prevede la chiusura di tutte le centrali entro il 2030. Noi crediamo e riteniamo che la chiusura di queste centrali possa avvenire entro il 2025. Attenzione, in Italia non c'è una quota diciamo di produzione da carbone enorme, insomma non siamo la Polonia, siamo un paese che con il carbone fa circa il 15, 16, 17, qualche anno fa faceva anche di meno, per cento della propria elettricità. Se ricominciassero delle politiche di sostegno alle rinnovabili serie, cosa che negli ultimi anni è stato diciamo largamente abbandonato, e si investisse sull'efficienza energetica, questo paese non avrebbe alcuna difficoltà a prevedere la chiusura di quelle centrali al 2025. Poi c'è, diciamo, un problema di carattere industriale con le aziende, con chi opera quelle centrali. Ovviamente alcune di queste aziende chiederanno delle compensazioni e su questo, diciamo, il governo ha come dire, messo le mani avanti e lanciato un'allerta. Il punto è che bisogna sempre fare delle contabilità, diciamo, come dire, che tengano in considerazione un po' tutto, no? Anche le esternalità del carbone. Quindi, dice Greenpeace, il carbone si può abbandonare al 2025 e ogni investimento sulla crescita delle rinnovabili è solo un investimento che ci porta in avanti rispetto a scadenze ineludibili. Ma di che sostegno stiamo parlando? Gli ho chiesto. Stiamo parlando di incentivi come in passato? Noi prima eravamo un paese che cresceva in maniera forte e poi siamo diventati un paese clamorosamente bloccato, cioè da qualche anno in Italia, ad esempio, lo sviluppo del solare è praticamente fermo e siamo, credo, uno dei pochi paesi al mondo in cui la produzione da rinnovabili negli ultimi anni è calata invece di crescere. Questo è veramente, diciamo, un risultato che ha qualcosa di antistorico, sì. Oserei dire. Ecco, bisogna come dire, facilitare innanzitutto la vita a chi vuole sviluppare e contribuire all'affermazione di quelle tecnologie. Non vuol dire assolutamente fare come dire, un far west, bisogna dare delle misure chiare, dei traguardi chiari, dei paletti chiari e dentro questa cornice normativa lasciar lavorare l'impresa. Quindi no soldi, ma un quadro normativo chiaro e definito, chiede Greenpeace, ma lo chiedono anche le imprese? Beh, ci è capitato di poterne parlare con Filippo Carzaniga, direttore generale di FIMER. Chi è FIMER? Cos'è FIMER? Cosa fa FIMER? È uno di quei colossi che sono più noti all'estero che in patria, sede nel milanese, opera nel settore delle energie rinnovabili, è partner tra l'altro anche di Enel nella maggior parte degli impianti fotovoltaici in America Latina, inclusi i più grandi, ma comunque non lavora solo con Enel e non crede negli incentivi. Senza alcun sostegno, ormai gli impianti, soprattutto se parliamo del Sud Italia, non necessiterebbero di alcun incentivo da parte dello Stato, quindi di alcun costo. A livello internazionale oggi vengono realizzati impianti senza alcun tipo di incentivo, anche perché l'energia elettrica prodotta da impianti rinnovabili oggi costa di meno che l'energia prodotta da impianti tradizionali. L'Italia è un po' al palo anche per Filippo Carzaniga. Non a caso la sua azienda sta lavorando per formulare delle proposte concrete al governo e dimostrare che al 2030 il nostro paese può coprire il 60% del fabbisogno energetico con le rinnovabili. È credibile, è un processo che è generato in molti paesi a livello internazionale. Riteniamo che in Italia si debba ritornare a investire nelle energie rinnovabili. Probabilmente si è sbagliata un po' la politica negli anni 2009, 2010 e 2011, quindi con un'errata politica incentivante che ha di fatto drogato il mercato. Oggi gli impianti rinnovabili sono impianti che si autosostengono senza forme di incentivo e quindi riteniamo che un ritorno alle energie rinnovabili da accelerare nel decennio 2020-2030 sia fondamentale e auspicabile per un sviluppo sostenibile del paese. Che tipo di benefici, diciamo, potremmo avere, che ritorno potremmo avere di questo passaggio, no? Cambiare le proporzioni? Una riconversione dell'energia prodotta in Italia renderebbe l'Italia innanzitutto autonoma dal punto di vista energetico, e questo è un aspetto fondamentale, e si creerebbe una filiera verde all'interno della produzione e del consumo di energia. Vediamo anche lo sviluppo oggi della mobilità elettrica, una riconversione delle centrali verso energie rinnovabili renderebbe veramente green anche la mobilità elettrica, per cui le macchine necessitano di essere ricaricate con una produzione di energia che non deve essere poi un'energia prodotta da impianti termici, ma un'energia ovviamente rinnovabile. L'ultima questione, questa SEN, diciamo che su cui si deve lavorare adesso, è praticamente l'ultima occasione, almeno per quello che mi pare di capire, cioè dobbiamo cambiare adesso rotta perché il mondo sta cambiando, perché ci sono non solo gli accordi di Parigi, ma c'è tutta una situazione geopolitica diversa che ci costringe ora a decidere, no? Sì, il mondo sta accelerando. Al di là degli accordi di Parigi, noi possiamo vedere determinati paesi che erano storicamente e notoriamente paesi inquinatori, tipo la Cina, che stanno proprio avendo un completo cambio di rotta. Stanno andando verso una politica veramente sostenibile. Questo è uno per me degli ultimi anche treni che passano. I fondi, parlo di finanza vera e propria, anche cominciano a chiedere e hanno attenzione rispetto a chi fa o non fa certe scelte. Assolutamente, assolutamente, perché è proprio un cambio culturale, è proprio una vera rivoluzione culturale, se vogliamo chiamarla così, che abbraccia diversi ambiti, quindi abbraccia dalla produzione di energia piuttosto che la produzione anche industriale, che essendo alimentate in maniera green cambia completamente paradigma di porsi a livello internazionale. E con questa bellissima idea in testa facciamo una pausa, proseguiamo subito dopo. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, come promesso a questo punto, Mortara. Non è facile dare un suono a un incendio, i rumori li fanno più gli uomini al lavoro per spegnerlo, tanto più che questo era un incendio in un deposito di stoccaggio rifiuti, non c'è nemmeno il crepitio degli alberi a spiegarlo. E però di natura intorno a Mortara ce n'è tanta, siamo in Lomellina, provincia di Pavia, sud di Milano, terra di risaie, che proseguono senza soluzione di continuità nel vicino Piemonte. Questa zona è la principale produttrice di riso in Europa. Alda La Rosa è presidente dell'associazione Futuro Sostenibile in Lomellina. Siamo una zona prevalentemente agricola con tanti 36.000 ettari di zone protezioni speciali, per cui non parliamo di poco, quindi tutelate anche dall'Europa, dove si fa comunque produzione anche biologica, cioè ci sono anche tante, molti giovani per esempio hanno anche aperto attività agricole con questo spirito. Sono terre non densamente popolate, cascine, qualche paese, qualche piccola città. Sono terre che sempre più di frequente in Lombardia, ma non dubitiamo anche nel resto d'Italia, ospitano depositi per i rifiuti delle città. In teoria questi rifiuti aspettano di venire separati e di raggiungere la loro destinazione finale, ma non poche volte restano semplicemente lì dove sono. Era un'aia, dice Alda La Rosa, quella su cui la Eredi Bertè, questo è il nome dell'azienda andata a fuoco, era un'aia quella in cui si accumulavano i rifiuti pericolosi e metallici. Quando sono andati a fuoco, la colonna di fumo nero era visibile a decine di chilometri di distanza e tutti si sono tappati in casa. Niente frutti dell'orto, niente scuole, niente di niente, perché la Eredi Bertè è bruciata per giorni. Poi finalmente i vigili del fuoco e la pioggia ne hanno avuto ragione e le analisi dell'ARPA non hanno rivelato livelli di diossina preoccupanti. Ma tutto è finito nel terreno, ricorda Alda La Rosa, e nelle falde acquifere. Nulla si distrugge. Bisogna decidere se quest'ultimo pezzo di territorio agricolo della Lombardia, che fosse rimasto l'unico, lo si vuole tramutare in qualcos'altro, o seppure ci teniamo, perché comunque è un valore aggiunto per tutti i lombardi, non soltanto per noi che comunque abitiamo qui. Ecco, quindi secondo me sono scelte che andrebbero, cioè bisognerebbe veramente ragionare su questo aspetto. Poi per quanto riguarda invece le ditte di rifiuti, che non prevedono, che comunque sono in regime di autocontrollo, quindi noi non possiamo più non considerare il problema anche a livello nazionale. Cioè gli incendi si susseguono. In questa ditta comunque ha catastato, ha stoccato per 12.000 metri cubi. Ecco, tenga presente una montagna, cioè almeno 10 metri di cumulo di altezza, dai 10 ai 15 metri di altezza. Quindi loro hanno accatastato e non hanno conferito, perché il passaggio è quello: tu vieni da me, ritiri quello che c'è da ritirare in materiale edile, quello che è, dopodiché va conferito e si paga. Allora, io non entro in merito a ciò che poi sarà l'indagine della magistratura, che mi auguro vada fino in fondo. Noi chiediamo come mai è successo da 7.000 metri cubi, che è l'autorizzazione che aveva dato Regione Lombardia nel 2015, perché l'autorizzazione l'ha data Regione, come mai in 2 anni siamo arrivati a catastato fino a 12.000 metri cubi. Questo quantomeno è la quantità che hanno dichiarato insomma, i vigili del fuoco. Poi bisognerà vedere nello specifico effettivamente cosa, perché poi mi auguro che ci saranno tutte le relazioni, no? Ovviamente dei vigili, le cose. Nonostante gli esposti che comunque ci sono stati, le lamentele anche, perché comunque è in una zona industriale, quindi anche altre ditte hanno presentato i loro reclami, perché insomma avevano sotto le finestre cumuli di immondizia. Nonostante questo, cosa è successo? Come mai non si è... Cioè qui bisogna fare prevenzione. Se non c'è il controllo, se non ci sono leggi adatte, se non a un certo punto non si mette un punto chiaro, fermo, si arriva veramente all'anarchia. Cioè chiunque brucerà i rifiuti come verrà. Se vogliamo dare una conclusione a questa chiacchierata con Alda La Rosa dell'Associazione Futuro Sostenibile in Lomellina, possiamo dare questa: se la legge c'è, va fatta rispettare, se è insufficiente va integrata o cambiata, ma le cose non vanno lasciate al caso, o peggio, perché sappiamo che certe volte ci si infila la malavita in queste questioni. Ultimo passaggio della giornata, ci tiriamo su con qualcosa che gira, è proprio il caso di dirlo, perché questa è la settimana europea della mobilità sostenibile e quest'anno è dedicata alla condivisione dei mezzi di trasporto. Allora andiamo rapidamente su due fronti. Il primo, per indirizzarvi alla nostra nuova trasmissione Europa Europa, per la quale abbiamo intervistato Giancarlo Simoni del comitato Slow Town di Casal Maggiore, provincia di Cremona, comitato ideatore della tangenziale dei bambini, unica buona pratica italiana segnalata nella guida europea preparata per questa settimana del 2017. Secondo fronte, andiamo a Verona, dove si sta svolgendo il Cosmo Bike, fiera di tutto ciò che riguarda il mondo della bici. Quest'anno la rivista viaggiinbici.com ha attribuito il premio Urban Award a chi? Ludovica Casellati ne è la direttrice. Beh, innanzitutto per noi l'Urban Award rappresenta per la prima edizione un premio che vuole mettere in evidenza i progetti di mobilità sostenibile delle città. Diciamo che appena abbiamo visto il progetto di Siracusa e quello che è stato già realizzato, devo dire che subito ci siamo orientati, perché c'è il bike sharing, ci sono servizi pubblici elettrici, il carpooling, fanno già il piedibus, insomma una città del sud che ha tutte queste cose ancora da sviluppare, ma già esistenti, andava premiata. Poi abbiamo premiato la città di Pesaro perché è già famosa per la bicipolitana, rete di ciclabili colorate che viene utilizzata come una metropolitana appunto in bicicletta, ma che sta incrementando un progetto che si chiama A scuola ci andiamo con gli amici, che è appunto un progetto di educazione alla sicurezza stradale. E il terzo premio l'abbiamo dato al Comune di Padova per un progetto analogo, sempre ma molto più complesso, che riguarda proprio i bicibus e i piedibus, e cioè la mobilità dei bambini autonoma per recarsi a scuola, addirittura con le miglia nel caso di Padova, con un concorso di miglia verdi, cioè la scuola che riesce a raggiungere il maggior numero di miglia verdi avrà un premio, viene premiata. E allora abbiamo ovviamente interpellato l'assessore alla mobilità, viabilità e trasporti del comune di Siracusa, si chiama Salvatore Piccione, ha messo in campo autobus elettrici, bike sharing, car sharing, pedibus per le scuole, ed è proprio un particolare di questo pedibus che ci ha incuriosito perché ha un tocco di novità e di sicilianità. Sperimentato l'anno scorso con notevole successo un sistema che chiamiamo piedibus, cioè la possibilità di una mobilità sostenibile che coinvolga principalmente i bambini, i genitori e i docenti delle scuole. In sostanza gli alunni della scuola primaria si incontrano 15, 20, 30 minuti prima dell'ingresso a scuola presso una vera e propria fermata, dove vengono accompagnati da due genitori volontari che svolgono poi un servizio a turno, raggiungono la scuola e durante le fermate intermedie i genitori leggono ai bambini dei piccoli racconti. Questo ci consente evidentemente di evitare l'eccesso di afflusso di autovetture nei pressi delle scuole. Non è semplice, ci vuole una grande fiducia anche da parte dei genitori, una cooperazione, un coordinamento tra docenti, genitori e bambini che devono collaborare. Bene, prossime iniziative ne avete già o aspettiamo l'anno prossimo un altro premio? Intanto queste, perché diciamo si innestano. Bisogna abituarsi, certo. Sì, bisogna sicuramente abituarsi. Abbiamo un programma a breve termine, quello di rivedere l'intero piano di trasporto pubblico locale, integrando quindi questa volta in maniera più organica i nostri pulmini elettrici con il trasporto pubblico locale. Vediamo se questo si potrà effettuare con l'attuale gestore oppure, come pensiamo, attraverso una gara pubblica che consenta l'ingresso nel mercato di altri soggetti. Il racconto della storia, del mito ai bambini che aspettano di andare a scuola è veramente un tocco di novità, quindi congratulazioni a Siracusa, ai siracusani. Ricordiamo di usare questi servizi che il comune mette a disposizione, altrimenti è tutta fatica sprecata, ma noi non la vogliamo sprecare. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto.